Il Signore disse a Mosè sul monte Sinai: ordina ai figli di Israele, quando entrerete nel paese che vi do, la terra osserverà un tempo di riposo per il Signore. Per 6 anni seminerai il tuo campo, e per 6 anni poterai la tua vigna e ne raccoglierai i prodotti. Nel 7° anno sarà un riposo completo per la terra, un riposo per il Signore. Non seminerai il tuo campo e non poterai la tua vigna, non mieterai il prodotto spontaneo al tempo del tuo raccolto e non vendemmierai i grappoli della tua vite non potata. Sia un anno di riposo completo per la terra. Il prodotto della terra in riposo vi servirà di cibo a te, al tuo servo e alla tua serva, e all'operaio preso a giornata e al tuo ospite, cioè a coloro che risiedono presso di te. Tutto quanto essa produrrà servirà di cibo al tuo bestiame e a ogni animale che si trova nel paese. Tu conterai 7 settimane di anni, 7 volte 7 anni. Il periodo di 7 settimane di anni è 49 anni. Farai risuonare il corno dell'acclamazione nel 7° mese, il 10 del mese. Nel giorno di espiazione farai risuonare il corno in tutta la vostra terra. Dichiarerete sacro il 50° anno e proclamerete nel paese la libertà per ogni suo abitante. Sarà per voi un giubileo. Ognuno tornerà nei suoi possessi, ognuno tornerà nella sua famiglia. Sarà un giubileo il 50° anno per voi. Non seminerete e non raccoglierete i prodotti della terra non seminata, e non vendemmierete la vite non potata. Il giubileo sarà infatti sacro per voi. Potrete mangiare quanto il campo produce spontaneamente. In tale anno giubilare, ognuno torni nei suoi possessi. Se venderai qualcosa a un tuo compatriota, o se comprerai qualcosa da un tuo compatriota, non danneggiatevi l'un l'altro. Secondo il numero degli anni trascorsi dopo il giubileo, stabilirai il prezzo d'acquisto da parte del tuo compatriota, ed egli, secondo il numero degli anni di rendita, ti stabilirà il prezzo di vendita. Più grande è il numero degli anni da trascorrere prima del giubileo, e più aumenterà il prezzo. Più piccolo è il numero degli anni, e più ridurrà il prezzo, perché è un certo numero di raccolti che egli ti vende. Non danneggiatevi l'un l'altro, e temi il tuo Dio. Io sono il Signore Dio tuo. Mettete in pratica le mie leggi e osservate i miei precetti. Praticateli e risiederete tranquilli nel paese. La terra darà i suoi frutti e voi mangerete a sazietà e risiederete tranquillamente in essa. Se direte: che cosa mangeremo nell'anno 7° se non abbiamo seminato né raccolto le nostre messi? Io ho comandato che la mia benedizione sia sopra di voi nell'anno 6° ed essa produrrà messi per 3 anni. Nell'8° anno seminerete e mangerete del vecchio raccolto fino all'anno 9°. Fino a che venga il raccolto di tale anno, mangerete il vecchio raccolto. La terra non sarà venduta perdendone ogni diritto, perché mia è la terra, e voi siete residenti e ospiti presso di me. Per ogni terreno in vostro possesso lascerete una possibilità di riscatto del terreno. Se un tuo fratello si trova in difficoltà e vende una parte dei suoi possedimenti, venga il suo parente più prossimo a esercitare il diritto di riscatto su quanto vende il suo fratello. Chi non ha un parente prossimo, quando sarà arrivato a trovare i mezzi necessari per il suo riscatto, calcoli gli anni della sua cessione e restituisca il denaro che è ancora dovuto all'uomo a cui ha venduto e rientri nel suo possesso. Se non riuscirà ad avere mezzi sufficienti per la restituzione, il bene venduto resti nelle mani di chi l'ha comprato fino all'anno del Giubileo. Questi ne uscirà nell'anno del Giubileo e l'altro rientrerà nel suo possesso. Se qualcuno vende una casa d'abitazione in una città cinta di mura, avrà diritto di riscatto fino allo spirare dell'anno in cui ha venduto. Il suo diritto al riscatto sarà limitato. Se il riscatto non ha avuto luogo prima dello spirare dell'intero anno, la casa, che si trova in una città cinta di mura, passi in possesso perpetuo di chi l'ha comprata e dei suoi discendenti. Non dovrà uscirne nell'anno giubilare. Ma le case dei villaggi non cinti di mura saranno considerate come fondi rustici. Ci sarà per esse diritto di riscatto e nell'anno giubilare l'acquirente ne uscirà. Città dei Leviti. Per le case delle città che sono loro possesso, il diritto di riscatto sarà eterno per i Leviti. Se colui che ha esercitato il riscatto appartiene ai Leviti, lasci nell'anno giubilare la casa venduta in una delle città di loro proprietà, perché le case delle città levitiche sono loro possesso in mezzo ai figli di Israele. I pascoli intorno alle loro città non siano venduti, perché sono un loro possesso perpetuo. Se un tuo fratello si trova in difficoltà ed è inadempiente con te, tu lo sostenterai come ospite e residente e vivrà presso di te. Non prenderai da lui denaro per interesse o profitto. Temerai il tuo Dio e il tuo fratello vivrà presso di te. Non gli darai il tuo denaro per ricavarne interesse, né per ricavarne profitto gli darai il tuo cibo. Io sono il Signore Dio vostro, che vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto per darvi la terra di Canaan, per essere vostro Dio. Se il tuo fratello si trova in difficoltà nei tuoi riguardi e si vende a te, non gli farai fare un lavoro da schiavo. Vivrà presso di te come un salariato o un ospite. Fino all'anno del Giubileo lavorerà con te. Poi ti lascerà, lui e i suoi figli con lui, e tornerà alla sua famiglia e riprenderà quanto possedevano i suoi padri, perché sono miei servi che ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Non possono essere venduti come schiavi. Non dominerai su di lui con durezza e temi il tuo Dio. Lo schiavo e la schiava di tua proprietà viverranno dai popoli che abitano intorno a voi. Da loro prenderete schiavi e schiave. Anche fra i figli degli ospiti che abitano presso di voi potrete prenderli, e dalle loro famiglie che si trovano presso di voi e che hanno generato nella vostra terra. Essi saranno vostro possesso. Li lascerete in eredità ai vostri figli dopo di voi, perché li assumano in possesso eterno. Presso di loro prenderete gli schiavi. Ma fra i vostri fratelli, i figli di Israele, nessuno domini duramente sull'altro. Se un ospite o un residente presso di te raggiunge l'agiatezza e un fratello si trova in difficoltà nei suoi riguardi e si vende schiavo a tale ospite o residente presso di te o a un membro della famiglia dell'ospite, dopo che si è venduto, avrà possibilità di riscatto. Uno fra i suoi fratelli lo può riscattare, o suo zio, o suo cugino, o qualche altro membro della sua famiglia lo può riscattare. O se ne avrà i mezzi, si può riscattare da sé. Insieme con il suo compratore calcolerà il tempo a partire dall'anno in cui si è venduto fino all'anno giubilare. e l'ammontare del prezzo della vendita dipenderà dal numero degli anni, calcolando in base alla giornata di un salariato. Se gli anni sono ancora molti, in base al numero di essi rimborserà come suo riscatto una parte della somma con cui è stato acquistato. Se gli anni che rimangono fino all'anno giubilare sono pochi, faccia il calcolo e secondo il numero degli anni rimborsi la somma per il suo riscatto. Stia presso il compratore come un salariato preso a servizio anno per anno e questi non lo domini con durezza sotto i tuoi occhi. Se non sarà stato riscattato nei modi predetti, sia libero nell'anno giubilare, lui e i suoi figli con lui. A me, infatti, appartengono i figli di Israele come servi. Essi sono i miei servi che ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. Io sono il Signore Dio loro.